Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. In Sargante e il traghettatore, benvenuti. Partiamo subito con una partita un po' speciale, una partita di calcio, una partita di beneficenza. Fin qui non c'è niente di straordinario. Quello che c'è di straordinario è che per ogni 20.000 euro raccolti durante questa esibizione, di cui vi diremo subito, ben 30.000 persone nei villaggi della Repubblica Federale d'Etiopia potranno avere l'acqua. Pensate che risultato incredibile. La partita si gioca allo stadio del Conero di Ancona. L'iniziativa è dell'associazione no profit Colibri per Africa. Giocheranno questa partita i giocatori di grandissimo lusso, soprattutto per la storia del calcio del nostro paese, Dossena, Schillaci, Altobelli, Gentile e Vierkovod, giocheranno contro le glorie della città di Ancona Calcio. Parliamo adesso invece di droghe furbe. Potrebbe anche sembrare un nome carino, droga furba, in realtà ovviamente, come potete immaginare, è assolutamente tragico. C'è una Iena, c'è una candy camera girata a Padova, c'è un'iniziativa per combattere queste droghe furbe. In realtà che cosa sono? Lo chiediamo ad Antonio Cabras, presidente di Sinfonia Lab, che ha intrapreso questa iniziativa di comunicazione. Cosa sono, Antonio Cabras, le droghe furbe? Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti. Ma in realtà queste droghe, come dicevi tu, molto furbe non sono, o meglio lo sono dal punto di vista della droga in sé, sicuramente non dal punto di vista di chi ne fa uso. Il furbo fa riferimento al fatto che non sono facilmente riconoscibili, quindi di fatto sono perfettamente legali, quindi l'accesso a questo tipo di droghe, diversamente da quello che succede con tutte le altre sostanze, è un accesso molto facile, è un accesso per esempio attraverso siti internet in cui si possono acquistare, si possono, come poi si vede nel nostro video, nel nostro progetto, si possono acquistare molto facilmente, arrivano a casa, hanno la forma di sostanze di tipo completamente diverso, per esempio pacchetti di sali da bagno, piuttosto che profumatori, piuttosto che incenso, e poi applicate in un certo modo, ad esempio fumate, hanno invece effetti che davvero furbi non sono. Ecco, abbiamo letto che le percentuali di crescita sono spaventose, dal 40-60% nel 2008 e più 30% nell'anno in corso. Voi che cosa avete organizzato? Una campagna di comunicazione diretta ai giovani, immaginiamo? Sì, giovani, perché giovani e giovanissimi anche direi, perché l'accesso a queste droghe, proprio per la facilità con cui ci si può arrivare, è un accesso che parte da un'età veramente molto, un'età di adolescenti, quindi il nostro progetto è rivolto a persone che hanno dai 15 a 25 anni, per intenderci. Il progetto essenzialmente è un blog, all'interno del blog quello che si trova è un video girato da la Iena Jeep, e soprattutto, e qui ci sta un coinvolgimento proprio dei ragazzi che sono i destinatari, perché abbiamo coinvolto una serie di ragazzi per girare queste sorte di candid camera qui nella città di Padova, in cui, con la metafora del sali da bagno, che è una delle forme che prendono queste droghe, sostanzialmente Jeep fa una serie di attività diciamo pure sceme, e utilizza questi sali da bagno in una maniera che è simpatica. Il progetto in sé ha un contorno che non vuole assolutamente essere di morale, di giudizio, eccetera, anzi anche il linguaggio che si usa, un po' irriverente, che è il classico delle Iene, il classico di Jeep, poi soprattutto per non allontanare poi alla fine i ragazzi da quello che è il messaggio che si vuole dare. Ecco, dov'è visibile questa candy camera, questo blog? È visibile su smartblog.it, quindi c'è un gioco, di fatto il video è girato con l'impostazione della soggettiva, cioè la persona che lo guarda, che all'inizio ha la sensazione di essere esattamente, protagonista. Esattamente. Grazie, Presidente. Grazie al Presidente di Sinfonia Lab, Antonio Cabras, e complimenti per l'iniziativa. Alla prossima. Continuiamo a raccontarvi la storia del no profit in Italia, così capite di che cosa vuol dire per questo paese e perché tanto allarme c'è a proposito dei contributi dello Stato. Le attività di volontariato sono svolte in Italia da 3 milioni e 300 mila cittadini, hanno un valore economico di quasi 8 miliardi di euro e pesano, secondo questo studio, quanto 385 mila posti di lavoro a tempo pieno. Se poi a questo dato assommiamo i 630 mila impiegati che sono regolarmente retribuiti, che fanno parte dell'universo no profit, si supera il milione di addetti e si arriva ad un volume di movimento, diciamo, finanziario di oltre 45 miliardi di euro, che è pari al 4% del prodotto interno lordo. Non sono numeri, non stiamo dando i numeri, li ha dati e sono molto credibili l'Istat, una ricerca commissionata dall'Osservatorio sull'Economia Sociale del CNEL. È tutto per oggi. Ferribotti@radio24.it per le vostre segnalazioni. Grazie ad Anita Panizzi in redazione e a Valeria Bernardi in regia.